una cosa che sorprende è che, come tendenza generale, la popolazione detenuta in Europa è tendenzialmente in calo. Non in tutti i paesi ci sono tendenze disomogenee, ma nella maggior parte dei paesi europei negli ultimi 10 anni la popolazione detenuta è diminuita, ed è diminuita anche nei paesi che si richiamano a politiche di destra, per ragioni le più diverse, ma probabilmente in fondo perché c'è la consapevolezza che la detenzione costa, il carcere costa, è costoso, e quindi diciamo la spinta verso più galere per tutti trova un freno nella crisi economica. Ecco, proprio collegandomi a questo, in controtendenza vanno la Francia e anche il nostro paese, l'Italia, che ha raggiunto il 120% di saturazione. Sì, l'Italia è uno dei paesi in cui la popolazione è detenuta e scesa per tanto tempo, principalmente a causa della sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e oggi da 2-3 anni i numeri sono tornati a crescere, e ovviamente la situazione è una situazione allarmante, perché avendo tutti viva nella memoria la situazione del 2010 e cosa voleva dire avere in carcere 79.000 persone, spazi che, è bene tenerlo presente, sono gli stessi di oggi, è chiaro che è una situazione che allarma e rispetto alla quale bisogna trovare al più presto soluzioni e vie d'uscita. Quali potrebbero essere? Un nuovo indulto? Pare molto difficile, però no. L'altra cosa è quello che ha aiutato molto nella vicenda del 2010 e che si può tornare a proporre oggi sono misure di esecuzione della pena diverse dalle detenzioni. L'Italia ha un sistema di alternativa alla detenzione consolidato, se ne parla poco, quantomeno nel nostro immaginario continua a esserci anzitutto il carcere, ma in realtà abbiamo decine di migliaia di persone in misura alternativa da tanto tempo, quindi abbiamo tutti i dati sulla recidiva, sull'efficacia, sulla non pericolosità di questo sistema, e quindi basterebbe spingere un po' di più, probabilmente anche investire economicamente un po' di più su quel fronte lì. Oggi il sistema delle alternative alla pena coinvolge un numero di persone più della metà rispetto ai detenuti, ma il budget è meno di un decimo, quindi probabilmente investimenti anche limitati sul fronte delle misure alternative potrebbero comportare un calo nel sovraffollamento significativo. Certo, ecco, ritorno un attimo ai dati europei, perché emerge che quasi un quarto della popolazione carceraria è in attesa ancora del giudizio definitivo. Questo è un problema di tanti paesi, e purtroppo è uno di quei temi su cui noi siamo fanalino di coda, perché la media italiana è ben più alta e contribuisce all'innalzamento della media europea. È una situazione problematica anche perché spesso la detenzione, il carcere, è più duro per le persone che non hanno ancora una condanna definitiva. In teoria sono ancora presunti innocenti, in pratica spesso sono ospitati nelle sezioni più col fatto che, cioè, appunto, sono sezioni di persone che non hanno sentenza definitiva, sono luoghi dove le persone entrano e escono più frequentemente, dove arriva per esempio il tossicodipendente che improvvisamente non si trova più a poter consumare e quindi va in astinenza. Quindi sono situazioni difficili, più turbolente, in cui si trovano le persone che non hanno una condanna definitiva. Anche questo, una applicazione più rigorosa delle leggi sulla custodia cautelare, che in Italia, come in tutta Europa, sono restrittive, perché la custodia cautelare dovrebbe essere una misura estrema, dovrebbe essere l'estrema ratio. Un'applicazione più rigorosa di quelle legislazioni, anche questa probabilmente consentirebbe di contenere i numeri della detenzione.